un'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, è il 25 luglio, io sono Federico Taddia, siete in diretta Radio 24 con l'altra Europa, l'appuntamento di ogni settimana per raccontare un po' l'Europa, delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Questa Europa che Radio 24 insieme al network Euronet Plus racconta giorno per giorno nella sua attualità politica ed economica. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Tutto ciò lo potete riascoltare sul nostro sito radio24.it, lì trovare anche tutti i contributi extra, in particolare i link relativi agli argomenti che andremo a toccare e anche gli euro post-it, che sono veramente un bagaglio, un cofanetto di dritte, di concorsi, di iniziative, di proposte di lavoro anche. Ve li proponiamo in onda e lì potete poi riascoltarli con calma e attenzione. Quindi le coordinate invece per seguirci via digitale, per interagire con noi, Facebook e Twitter, @euronetplusr24, oppure il mio account personale, @FedericoTaddia. Si parte, e oggi si parte dallo sport. Che unisce, lo sport che contamina, lo sport che permette occasioni di incontro e confronto tra culture. L'Europa può, deve, è cresciuta anche grazie allo sport, e anche per questo si stanno svolgendo in questi giorni, aprono proprio oggi, dal 26 luglio al 1 agosto andiamo in Georgia, a Tbilisi, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, dell'Associazione dei Comitati Olimpici Europei sotto l'egida del CIO. Sono 104 gli atleti italiani, tutti under 18. Diamo il benvenuto al capo della delegazione italiana, che è Gian Piero Pastore, argento nella sciabola d'Atene 2004 e tante altre medaglie che contornano la sua carriera. Ciao Gian Piero, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, tutto pronto per l'apertura e domani c'è la cerimonia iniziale, giusto? Sì, stamattina è arrivata tutta la squadra italiana con tutti gli atleti tecnici, qui è tutto organizzato molto bene, ci stiamo ambientando. Domani sera intorno alle 8 ci sarà la cerimonia d'apertura e poi da dopodomani praticamente inizieranno le gare. Che significato hanno questi giochi? Ho fatto una piccola premessa per raccontare cosa sono, ma al di là delle finalità sportive ed atletiche, sono tutti sono atleti di primo ordine, benché così giovani, sono tutte giovani promesse, però c'è qualcosa che va al di là del risultato sportivo. No, ma sicuramente, poi soprattutto a questa età, innanzitutto per loro è un grande momento di crescita, perché appunto, vista la loro giovane età, per tanti forse è la prima esperienza a livello internazionale o comunque una delle prime. Quindi al di là dei risultati, ovviamente quando si tratta di competizioni di questo genere, chiunque vuole vincere, comunque rappresenta un momento di crescita che ricorderanno per tutta la vita, perché comunque loro in questo momento per la prima volta vestono la maglia del CONI, fanno parte di una squadra ufficiale del CONI, quindi sicuramente per loro è un'occasione molto importante che devono vivere, secondo me, con la massima spensieratezza, puntandosi al risultato, ma comunque vedendola come una grande esperienza di crescita. E Gian Piero, tu hai una ricchissima e lunghissima esperienza di competizioni internazionali, e si difende la propria maglia, quindi si è lì e si rappresenta la propria nazione. Però diventano occasioni anche di apertura, come abbiamo detto prima, di confronto. Sono esperienze che permettono di respirare aria europea, aria internazionale, di andare al di là dei confini. Guarda, hai citato i miei risultati a livello internazionale. Io personalmente ritengo sempre che, oltre fortunatamente ad aver vinto medaglie importanti, però ho avuto la possibilità fin da piccolo di poter vivere situazioni e emozioni indescrivibili che solo lo sport ti può dare. Il fatto di poter condividere questa esperienza e altre con rappresentanti di tutte le nazioni è sicuramente una delle opportunità maggiori che offre lo sport. Quindi non si conoscono barriere, non si conoscono limiti di nessun genere. Questo sicuramente, oltre all'aspetto agonistico, sicuramente è un qualcosa che contraddistingue l'attività sportiva, il movimento sportivo, il fatto che appunto si viva tutti quanti insieme all'interno di un villaggio senza nessuna distinzione è già il primo segnale. E tbilisi2015.com è il sito ufficiale per conoscere l'intero programma delle gare. Credo che al tuo fianco lì con te ci sia Martina Maggio, che è la portabandiera della delegazione italiana. Se ce la vuoi passare così la salutiamo. Sì, te la faccio subito. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Ciao Martina. Pronto? Ciao. Ciao. Sei già emozionata? Ciao. Si sente dalla voce? Un po'. Tu sei una ginnasta, un vero? Sei lì e fai ginnastica artistica, se non sbaglio. E cosa provi a rappresentare l'Italia e ad essere in particolare la portabandiera? È bellissimo perché non me lo aspettavo e comunque ho una grande responsabilità perché devo portare la bandiera e sono felicissima. Quanti anni hai tu, Martina? È tra domani 14. Ah, è domani il tuo compleanno? Sì. Fantastico, beh, insomma, quale regalo migliore. Martina, ci salutiamo con un'immagine. Esatto. Qual è la prima cosa che ti ha colpito quando sei arrivata lì, la prima cosa che hai notato, la prima cosa che ti ha fatto dire wow? La grandezza del villaggio. Ah, ok, è certo che la vostra casa per questa settimana, il villaggio che vi ospita, che ospita tante teste, tanti cuori, tanti atleti. In bocca al lupo Martina, a te e a tutti i tuoi compagni di gara, a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi che rappresentano l'Italia e in questo caso l'Europa, visto che per fortuna sono tantissime le nazioni coinvolte. Ciao, in bocca al lupo. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Youth Capacity Building. Siete una rete di associazioni e avete un progetto di mobilità giovanile internazionale? Allora attenzione, perché la Commissione europea mette a disposizione fino a 150.000 euro di finanziamenti per progetti riguardanti attività giovanili internazionali e mobilità, presentati da network di associazioni europee e di paesi partner. Il bando si chiama Youth Capacity Building e possono fare domanda gruppi di almeno 3 associazioni giovanili, pubbliche o private. I progetti devono incentivare la mobilità giovanile tra paesi europei e paesi vicini. Tra i progetti finanziabili rientrano anche grandi eventi, attività internazionali, gruppi di lavoro, conferenze, programmi di scambio, iniziative leggibili per lo SVE e programmi di mobilità per giovani lavoratori. Le domande andranno presentate entro il 2 settembre, cercando il bando Capacity Building in the Field of Youth all'indirizzo eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus. L'altra Europa. Egyptian, L'Europa unita nel segno dell'Egitto. Non stiamo parlando di politica contemporanea, ma stiamo parlando di archeologia. Vi sto portando a scoprire una storia che è affascinante, ma anche bella e importante, perché è un segno delle eccellenze, in questo caso delle eccellenze italiane, poco conosciute anche. Un progetto che in questo momento lo potete vedere, e vedere sarà la parola chiave di questo programma. Lo potete vedere presso il Castello Aragonese di Ischia, che è sede dell'Istituto Europeo del Restauro, perché lì si sta concretizzando un tassello, un pezzettino di questo progetto. E ne parliamo con il direttore, col presidente, scusate, dell'Istituto Europeo del Restauro di Ischia. Diamo il benvenuto a Teodoro Auricchio. Buongiorno Auricchio. Buongiorno a tutti. Allora, siamo abituati a vedere i sarcofagi, siamo abituati a seguire il restauro, siamo abituati a cose che subito ci portano in dimensioni un po' polverose, un po' antiche, un po' tradizionali. Qui invece c'è una bellissima unione tra passato e futuro. In questa capsula Europa, di cosa si tratta? Allora, praticamente diciamo che l'Istituto Europeo del Restauro, in collaborazione con i Musei di Arte e Storia di Bruxelles, ha dato il via il 18 ottobre scorso a questo importante progetto scientifico-culturale, che era finalizzato a restaurare in pubblico 5 sarcofagi della 21esima dinastia che appartenevano alla collezione del museo. Il progetto, esattamente come hai detto tu, è molto dinamico, quindi si è pensato non solo di fare la solita esposizione museale fine a se stessa, ma di renderla realmente interattiva a largo pubblico e non solo. E quindi per fare questo abbiamo pensato di realizzare un laboratorio mobile esperienziale da poter inserire nell'ambito della mostra che poi sarà fatta al Museo Belga dal mese di ottobre alla fine aprile prossimo, dal titolo I sarcofagi sotto le stelle di Nut, dove il pubblico potrà vedere il restauro in diretta. Quindi stiamo parlando di un tunnel di cristallo lungo 16 metri, altamente, esatto, tecnologico, sì. E dentro i restauratori lavorano durante appunto le loro giornate, e il pubblico può partecipare di fatto assistendo alle operazioni, certo, di restauro. Assiste e può anche interagire, perché ci sarà anche del personale addetto a questo. Ed è stato questo molto interessante, perché non solo a livello tecnico-scientifico la realizzazione di questa capsula laboratoriale abbastanza sofisticata, dove grandi industrie hanno partecipato alla sua realizzazione per poter mettere in sicurezza sia i restauratori che le opere che il pubblico, ma anche perché il progetto ha previsto una serie anche di componenti molto particolari, come ad esempio la formazione stessa di coloro che poi opereranno su questi sarcofagi, che sono dei giovani restauratori che provengono da varie nazionalità. Quindi si è allargato un pochino di più, ecco. Qual è stata la risposta del pubblico fino ad oggi? Ma fino ad oggi la risposta pubblica è stata molto importante, significativa, perché qui al Castello Aragonese, dove abbiamo sede e dove abbiamo montato il prototipo della capsula, sì, quindi solamente 8 metri dei 16 previsti, l'interesse è stato altissimo, perché naturalmente il poter vedere così da vicino e anche svolgere delle operazioni, noi qui a Ischia abbiamo fatto tutta la fase di diagnostica, che fra l'altro l'abbiamo anche messa in streaming, quindi anche da casa, diciamo così, si poteva anche vedere, è stato un evento molto particolare che ha avuto molto riscontro, ovviamente. Istituto Europeo del Restauro.it è il sito per appunto conoscere tutte le attività dell'istituto e immagino anche seguire il progetto. Quindi la prossima tappa da ottobre, se non erro, si va tutti, esatto, a Bruxelles, giusto? Sì, da ottobre praticamente, nell'ambito di questa grande esposizione che farà il museo, che durerà, ripeto, fino ad aprile, sarà praticamente trasportata la capsula montata completamente, e ci sarà appunto questo evento che crediamo coinvolgerà veramente tantissimo pubblico, proprio per come è stato, diciamo così, formulato. Il segreto un po' dell'operazione è stato voler veramente fare qualcosa per gli appassionati, per gli studiosi, quindi è un progetto che all'interno non solo si interessa naturalmente, come giusto che sia, di ricerca, ma anche di far diciamo interagire realmente il pubblico, facendogli vedere quello che avviene poi dietro a un'opera d'arte, certo, che viene esposta nei musei. Insomma. Certo, insomma, una divulgazione scientifica nuova, interattiva, moderna. I sarcofagi come stanno in tutto ciò? I sarcofagi stanno abbastanza bene, anche se l'intervento naturalmente è un intervento molto complesso. Abbiamo proprio terminato giorni fa la prima fase di diagnostica, dove collaborano poi esperti di vari settori provenienti da varie istituzioni scientifiche universitarie che collaborano con noi, e quindi ci stiamo preparando praticamente per il trasferimento che avverrà poi dalla metà di settembre in avanti. Complimenti, ricordiamo Istituto Europeo del Restauro.it, complimenti davvero, in bocca al lupo, ma ci risentiremo sicuramente per continuare a seguire questo bel progetto. Buon lavoro, Auricchio. Grazie a voi dell'interesse e buona giornata. Buona giornata. Un saluto a tutti, salve. Europost-it. Mobility Week 2015. Scegli, cambia, combina. È questo lo slogan della Settimana Europea della Mobilità, che torna anche quest'anno in tutta Europa. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Settimana 2015, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre. Città e paesi di tutta Europa, e non solo, possono registrare la loro partecipazione online. Quest'anno sarà celebrato il tema della multimodalità. L'obiettivo ambizioso della prossima edizione è quello di superare il numero delle 2013 città che hanno aderito lo scorso anno. Come tutti gli anni, città e paesi potranno decidere se aderire organizzando una intera settimana di attività, eventi singoli, oppure se attuare una nuova misura a carattere permanente in onore della Settimana della Mobilità. Per informazioni e per iscrivere la vostra città, visitate il sito mobilityweek.eu. Tutte le città partecipanti saranno visualizzate sia sul sito ufficiale, sia sul sito del Ministero dell'Ambiente, nell'apposita sezione Comuni aderenti, della pagina dedicata all'evento. Born a poor young country boy, Mother Nature's son. Day long, I'm sitting singing songs for everyone. Al lavoro per educare le città all'ambiente, un po' questo è il cuore del progetto UNET, progetto finanziato con 150.000 euro, progetto presentato dal comune di Thiennes, in provincia di Vicenza, con 11 partner tra Francia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Serbia, Malta e ovviamente Italia. Per capire bene cosa si tratta e per capire bene anche l'importanza del riuscire a vincere a un progetto del genere, che è quando l'Europa è presente sul territorio, sul piccolo territorio anche, senza nulla a togliere, attiene, però vuol dire che l'Europa può far parte della tua quotidianità. E abbiamo invitato Antonella Valmorbida, segretario generale di ALDA, che è l'Associazione Europea per la Democrazia Locale. Buongiorno Antonella. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Da dove partiamo? Da UNET o da ALDA? Perché qui insomma, le due cose sono anche abbastanza interconnesse. Partiamo da UNET forse. Ok, che cos'è? Allora, come lei diceva, UNET è un progetto che ha per obiettivo, con i partner europei, che sono città e associazioni, ha per obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente e all'adozione di comportamenti virtuosi contro l'inquinamento e il degrado nella città, dunque partendo da questa cittadinanza. Ma quindi è un progetto di comunicazione, soprattutto di sensibilizzazione, comunicazione, educazione, diciamo? Ci sono... Sì, è un progetto di sensibilizzazione e di consolidamento delle conoscenze dei vari componenti della società, perciò coinvolgeremo non solo le istituzioni pubbliche e i loro funzionari, ma anche le scuole e le associazioni. Uh-huh. Durerà 24 mesi, se non erro, questo progetto? Sì, durerà 2 anni. E quest'anno è particolarmente importante perché è l'anno europeo dello sviluppo e perciò questo progetto, che ha un obiettivo di consapevolezza dei grandi progetti mondiali come quello della tutela dell'ambiente, si ricollega a questo anno europeo dello sviluppo. E il progetto prevede sia dei momenti internazionali dove tutti questi partner, coordinati appunto dal comune di Thiene con Alda come partner tecnico, si ritrovano su dei temi importanti a livello internazionale, come l'opportunità non solo diciamo ambientale di lottare contro il degrado e l'inquinamento, ma anche come questo può diventare un'attività economica e essere un'opportunità anche a livello diciamo di impresa del riciclo. Mm-hmm. Ci troveremo anche su come come esperienza, quali sono le buone pratiche che hanno saputo mobilizzare i cittadini su questo tema e attivarli, e come le cose hanno funzionato, con degli appuntamenti in Portogallo, a Strasburgo e anche in Sud Italia, a Taranto, con un partner nostro. Certo. E poi tra questi vari appuntamenti ci sono delle attività territoriali, come lei diceva, con delle azioni a cascata che attraverso scuole, momenti di cittadinanza vera, possono veicolare e condividere questo tipo di tematica e cosa si può fare in ogni città. Antonella, ci può veramente sinteticamente dire anche che cos'è ALDA? Poi ci torneremo sicuramente in una delle prossime puntate, perché credo che insomma sia un argomento e sia un'associazione molto interessante da scoprire. Sì, beh, grazie dell'opportunità. ALDA è un'associazione che punta a fornire migliori servizi al cittadino attraverso la crescita e lo sviluppo degli enti locali e delle loro funzioni che dialogano con i cittadini. Cioè, per noi il nostro obiettivo è quello di sviluppare un'attitudine alla partecipazione, perché per noi la partecipazione a livello locale crea responsabilità. E questo si articola attraverso vari temi, infatti noi lavoriamo sui temi più diversi, che sono quelli del giovani alla partecipazione, allo sviluppo, all'economia, il discorso anche dell'ambiente, per esempio attraverso il progetto Winnet, ma non solo, attraverso il dialogo interculturale che sviluppiamo sia in Europa, nell'est, nel sud e nei Balcani. Dunque per noi il punto centrale è l'attivismo locale, il fatto che ogni cittadino abbia la possibilità di lavorare con il suo comune, con la sua regione, per la sua comunità. Insomma, si esce dal palazzo, si entra nel territorio e si cerca di cambiare le cose dal basso. Alda, esatto. linettaeurope.eu il sito per conoscere l'associazione, ma come ho già detto ci torneremo in una delle prossime puntate. Grazie Antonella, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Fellowship al CERN di Ginevra. Ti piacerebbe lavorare per 2 anni in un ambiente internazionale all'avanguardia nella ricerca? Allora potresti essere interessato a uno dei programmi di fellowship offerti dal CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Le fellowship del CERN vengono assegnate a circa 200 persone l'anno, divise tra un gruppo di senior fellowship per lavori di ricerca di fisica sperimentale o teorica e un gruppo di sviluppo e ricerca sulle scienze applicate, computing e ingegneria. Le fellowship di fisica sperimentale o teorica sono rivolte solitamente ai ricercatori che hanno completato un dottorato o PhD, mentre le fellowship in scienze applicate, computing e ingegneria sono aperte anche a laureati triennali e magistrali. Le candidature dovranno essere inviate entro il 7 settembre 2015, seguendo le istruzioni indicate dal sito jobs.web.cern.ch. L'altra Europa. This one is a lie. Sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. @FedericoTaddia mi trovate su Twitter e su Facebook, lì pubblichiamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ora entriamo in Expo e lo facciamo perché mercoledì si è svolta una giornata che ha come obiettivo organizzata per parlare di consapevolezza alimentare e scelte di acquisto, quindi temi molto legati ad Expo, però questa giornata è stata organizzata dalla piattaforma elettronica europea EPALE, che è una piattaforma nuova, un'esperienza assolutamente innovativa, e si parla di educazione agli adulti, no? Molte volte parliamo di Erasmus, parliamo di Erasmus Plus, parliamo di i twinning, quindi tante attività tra l'online e l'offline che vedono i giovani dai 0 ai 25 anni come centro, come target finale. Qui invece si parla di educazione permanente, di educazione agli adulti. Per capire il valore di questa giornata, ma soprattutto per capire di cosa si tratta, che cos'è questa piattaforma, abbiamo invitato Daniela Ermini dell'Unità Nazionale EPALE Italia. Ciao Daniela, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, partiamo da EPALE. Che cos'è? Riusciamo a spiegarlo concretamente ai nostri ascoltatori? Sì, EPALE è una novità, è la prima piattaforma a partecipazione aperta dedicata all'apprendimento degli adulti. EPALE è un acronimo, sta per Electronic Platform for Adult Education in Europe, ed è un'iniziativa finanziata dalla Commissione Europea, in particolare dalla Direzione Generale dell'Istruzione e della Cultura, dalla DGEAC. Ed è e sta diventando, perché è nata da pochi mesi, quindi sta veramente crescendo mese dopo mese, un punto di riferimento importante per chi si occupa di educazione, di apprendimento degli adulti in Italia e in tutta Europa. Mm-hmm. Il mondo dell'educazione degli adulti è molto variegato, comprende la formazione professionale, ma comprende anche tutti quei contesti educativi formali, non formali e informali. E quindi è un mondo molto variegato, molto vasto, e il fatto che ci sia uno strumento fortemente voluto dalla Commissione Europea per riunire insieme tutti questi aspetti è molto importante. È assolutamente una piattaforma che si rivolge ad insegnanti, ai formatori, ai ricercatori, agli accademici. Mm-hmm. Anche ai responsabili del disegno delle politiche e degli interventi in materia di apprendimento degli adulti. Per fare che cosa? Sostanzialmente per offrire tutta una serie di strumenti che possano migliorare la qualità e l'offerta formativa nell'ambito della formazione permanente in Europa. Quindi certo, lo scopo di EPALE è proprio quello di sviluppare una comunità interattiva che dialoghi a livello nazionale ma anche a livello europeo per stimolare l'innovazione, per aiutare a scambiare delle idee, a stabilire legami e connessioni tra aree molto diverse e in paesi diversi. Quello di Expo è stato il terzo incontro tematico proposto per far conoscere la community. I prossimi eventi saranno dedicati alle donne a fine settembre a Perugia e all'educazione in carcere invece a Napoli ad ottobre. Qual è il sito di riferimento per conoscere la piattaforma? Allora, la piattaforma è accessibile al sito europa.eu/epale. Perfetto. La piattaforma tra l'altro è multilingue, quindi è possibile selezionare l'italiano ed avere accesso a tutti i contenuti in italiano. Uh-huh. Quindi andare sulla piattaforma, iscriversi e partecipare attivamente è molto importante. Poi naturalmente noi abbiamo creato i nostri canali social, che sono la pagina Facebook e la pagina Twitter, Epale Italia, e questo è il modo migliore per sapere tutto quello che l'unità italiana di Epale sta organizzando, perché naturalmente questo è il primo anno di vita della piattaforma e quindi stiamo veramente cercando di promuoverla attraverso tutta una serie di attività, di seminari, di conferenze su tutto il territorio nazionale, che appunto stanno raccogliendo molti consensi, molto entusiasmo. L'incontro di Epale, infatti, come è andata? Come è andata ad Expo? L'esperienza di Expo è stata sicuramente interessante. Per noi è stato estremamente importante avere la possibilità di parlare in questa occasione ai visitatori dell'Expo, ai visitatori che si trovavano al Padiglione Italia, al vivaio scuola, perché il settore del Padiglione Italia è dedicato alla scuola, insomma dedicato al mondo dell'istruzione. E noi abbiamo colto questa occasione per presentare la piattaforma, quindi per presentare Fale, e l'abbiamo fatto attraverso la presentazione di tre progetti realizzati da tre diverse associazioni che operano in realtà diverse, in regioni diverse italiane, in partenariati europei, che sono nati grazie al contributo proprio dei programmi comunitari per l'istruzione. E in particolare si è trattato di due progetti nati, finanziati sotto il programma Grundfig, il precedente programma per l'educazione degli adulti, e un progetto finanziato proprio nuovissimo sotto con il finanziamento del nuovo programma Erasmus+. Allora, i curatori, adesso li cito, erano appunto progetti educazione alimentare, progetti un GAS, quindi laboratorio di acquisto e competenze, un altro progetto dell'Università Senza Età di Udine sull'educazione alimentare, e tutto ciò si può trovare ovviamente sul sito che abbiamo dato prima, sui social di Epale. Grazie Daniela. Noi ci ritroviamo direi tra settembre e ottobre, così vi seguiamo nel vostro tour per andare a presentare, per andare a promuovervi e per raccontare appunto tutte le potenzialità di Epale. Ciao, buon sabato, grazie. Ringrazio voi. Ciao, grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. We are not the same. We are different. All of us. Yet we are united in working for the same cause. It all starts with Erasmus. That's the origin. When we take the first step abroad into the unknown and leave behind everything we know. It may sound funny, but in this separation, we are truly coming together. We forgot about those differences. We were curious for each other as who we are. We understood that difference is not a reason for division after all. Questo è Erasmus Student Network, che con queste parole andiamo a Macerata, dove si sta tenendo la seconda edizione del Erasmus Student Network School nazionale. Con noi c'è Serena D'Amato, che è coordinatrice di ESN School. Ciao Serena. Ciao a tutti. Cosa sta accadendo a Macerata in questi giorni? Allora, praticamente ieri è iniziata la seconda edizione dell'ESN School nazionale, come ben detto. Quindi da ieri i ragazzi stanno seguendo dei workshop formativi sull'Erasmus e su tutte comunque quelle materie che possono arricchirli per poter svolgere quel volontariato che noi facciamo durante l'anno. Quindi siete tutti studenti italiani o studenti Erasmus? Sì, anche siamo tutti studenti italiani. E che siete quelli provengono che dal nord al sud. Fate una sorta di tre giorni formativa in preparazione della prossima stagione scolastica. Esatto. Praticamente questo incontro serve per formare i volontari per poter poi iniziare a ottobre con le attività che forniamo agli studenti Erasmus che vengono a studiare in Italia. ESNmacerata.it per avere tutte le informazioni. Serena, per chi non vi conoscesse o fosse interessato ad avvicinarsi a voi, ci vuoi ricordare in sintesi chi siete e cosa fate? Praticamente noi siamo un network che si trova in Italia ma anche in tutta Europa. E siamo appoggiati dalla Commissione Europea e praticamente appunto svolgiamo questo volontariato per gli studenti internazionali che vengono in Italia per far conoscere loro il territorio italiano e anche per aiutarli comunque nei problemi che devono affrontare non appena arrivano in Italia. Mm-hmm. La scelta delle materie, cercare l'alloggio, capire come funzionano i trasporti delle città e poi appunto scoprire la cultura italiana, dalla cucina a bellezze che il nostro paese ha da offrire. Eh certo, insomma si parla sempre dell'Erasmus come la possibilità di andare all'estero a studiare, ma c'è anche l'altra faccia dell'Erasmus, che è questa, ed è chi accoglie gli studenti stranieri, quindi un modo per fare l'Erasmus però rimanendo appunto nel proprio paese. Grazie, in bocca al lupo, esatto, per questa due giorni. Dimmi. No, sì, appunto dicevo, noi siamo un po' quelli che siamo tolti dall'Erasmus tristi e quindi entriamo in Erasmus del Network per non terminare questo bellissimo percorso. Insomma, che è un modo per continuare e rivivere giorno per giorno questa esperienza. Grazie davvero, ciao Serena. Sì. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ci fermiamo il traffico, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Cool. Water won't bring you down, but it's hard. My backyard is full of hand-me-downs. Take it quick while the going's good. If you are, thank the stars like I. Accendere i riflettori su una comune identità europea, ma non solo, nel senso che non ci si ferma a guardare questa fotografia, ma si cerca anche di contribuire a modellarla, a proporre altre visioni, a prendere delle direzioni. Questo è quello che succede da 25 anni ogni estate in Friuli Venezia Giulia attraverso il Mittelfest, questo festival delle arti, perché sono tante le arti coinvolte. L'acqua è il tema di quest'anno, perché si può costruire identità europea attraverso l'acqua, l'aria sarà il prossimo anno, la terra nel 2017. Questo è il percorso avviato. Per capire cosa sta accadendo e cos'è accaduto in questi giorni, diamo il benvenuto a Franco Calabretto, che è direttore artistico del Mittelfest. Ciao Franco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ed è davvero un'altra Europa quella che voi raccontate attraverso la musica, il teatro, la danza, il cinema, gli incontri, nuove forme teatrali. E come sono andate queste giornate? Ma sono andate benissimo, nel senso che Mittelfest ha una sua peculiarità, una sua caratteristica, si inserisce in una città patrimonio UNESCO, una città che diventa palcoscenico, una città che i padri fondatori oramai 25 anni fa avevano individuato, perché questo estremo lembo di Italia, di Nord-Est, che si incunea tra Austria e adesso Slovenia, era stato individuato come il momento strategico di incontro, di crocevia. In Friuli si incontrano la cultura latina naturalmente, ma anche la slava e la germanica, ci sono minoranze linguistiche, e quindi era stata individuata questa zona come emblematica per raccontare quella che nel 1991 era una grandissima curiosità. Che cosa succede dall'altra parte del muro, dall'altra parte dell'Europa tagliata in due, dall'altra parte di questa cortina che solo pochissimi anni prima tagliava in due l'Europa, ma di fatto tagliava in due il mondo? Lei sa che Gorizia è stata l'unica città italiana tagliata in due da un muro, esattamente come, sì, come Berlino. Sì. E quindi questo festival racconta da 25 anni appunto questa evoluzione dell'Europa. È partito con cinque stati fondatori, poi si è allargato all'area dell'iniziativa centro-europea. Quest'anno abbiamo deciso di parlare di acqua, l'acqua che è la via di comunicazione per eccellenza, è anche il bene prezioso da salvaguardare e difendere, per cui l'edizione di quest'anno è andata un po' su questo doppio binario: da un lato gli spettacoli ispirati appunto a questo tema e dall'altro anche momenti di riflessione, quindi con un'attenzione diciamo a tematiche ambientali, che sono una cosa nuova rispetto alla storia di Mittelfest. Mm-hmm. E vi consiglio di guardare il programma sul sito che è areare.it, se non erro. No, ho sbagliato. Mittelfest.org. Scusa, ho sbagliato, infatti mi suonava male. Mittelfest.org, programma ricchissimo, soprattutto oggi e domani ci sono tantissime cose. Mi ha incuriosito questo Armenian Dream, come mai l'Armenia protagonista con questo progetto? Bene, insomma, questo è l'anno del centenario del genocidio armeno. Mittelfest non fa politica e non vuole prendere posizioni all'interno di situazioni che sono così difficili, così che possono urtare tante suscettibilità, però neanche star zitto. E allora quello che mi è piaciuto inventare, proporre, è la partecipazione del più famoso musicista armeno, Arto Tunk Boyachan, e jazzista e polistrumentista, che viene in Friuli assieme a Balamescu per una jam session con musicisti friulani. Quindi l'Armenia il giorno prima di uno dei grandi momenti finali del festival, il concerto di domani sera in Piazza Duomo con la Istanbul State Symphony Orchestra. Insomma, situazioni che sarebbero assolutamente improponibili nella loro patria, noi li mettiamo vicine, non li facciamo né incontrare né scontrare, li mettiamo vicini, come una ipotesi di plausibile condivisione. Come mi è piaciuto molto mettere insieme il duo pianistico formato da un pianista ebreo e uno palestinese, come dire che all'interno della musica è possibile superare probabilmente quello che la politica non ce la fa proprio. Eh sì, insomma, gli incontri, gli accostamenti anche bizzarri e divergenti sono una delle caratteristiche del festival. Sfogliate davvero il programma, perché insomma è tutta una curiosità. Questa sera alle 22 vedo che c'è Alessandra Ferri con Evolution. Beh, accanto a una... Dunque, Mittelfest è spazio per la creatività non giovanile. Ci sono prime esecuzioni, ci sono commissioni di coreografie, di spettacoli di teatro, ma certamente ci sono anche i grandi nomi, e quindi come non resistere ad invitare la grande étoile della Scala di Milano, che non ce la fa proprio a rimanere lontana dal palcoscenico e ritorna con alcune date particolari, per cui questa sera al Teatro Giovanni da Udine alle 22 appunto c'è il suo spettacolo Evolution. Oppure la prima assoluta di Scandalo con Stefania Rocca e Franco Castellano del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, uno Schnitzler che non è mai stato rappresentato. E quindi, come vede, ci sono delle situazioni peculiari di Mittelfest, che è il festival della Mitteleuropa, ma che diventa proprio in questi anni, dove insomma le cose più sensibili e più anche minacciose, pericolose, urgenti da guardare avvengono al sud dell'Europa. Certo, e quindi a proposito di vie d'acque, noi siamo scesi dal mare Adriatico per arrivare al Mediterraneo, perché appunto lei mi ha chiesto dell'Armenia, io le ho detto di Israele con queste situazioni così particolari. Abbiamo avuto il concerto di Mashru Leila, una band libanese che insomma, è stata la voce della rivoluzione. Esatto, sì, tanto Mediterraneo, tanta acqua, proprio nel senso anche proprio di società liquida, di società che può e deve cambiare. Mittelfest.org è il sito per tutte le informazioni. Grazie Franco, complimenti davvero e buon lavoro. Un grazie a Filippo Aureggi, un grazie a Cristian Goldoni oggi in assistenza, un grazie a Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è a sabato prossimo, oppure domani alle 9 con Terra in Vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.